Tu lo sai che devi leggere i mercati, Debora, invece che parlare di scaffali. Vedi che allora è giusto che io abbia sempre fame, perché guarda quanto lavoro. Vogliamo farmi mancare il nutraceutico? Dottor colesterolo, dottora Bolli. Dottora Bolli. Ma anche voi questa mattina capitate, come si dice, a fagiolo. A fagiolo, ecco. Cioè addirittura ti salta i pasti per risparmiare calorie. Questione per me incomprensibile, Giovanni non ridere. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero Papa Braschi, ti danno donne, whisky, salute. Allora, io non so quanti dei nostri ascoltatori possano affermare di vivere come dei pascià in questi tempi, cara la mia Nicoletta. Ma nel caso decidiate di concedervi un lusso un po' al di fuori dalla vostra portata, ricordate di fare attenzione, perché qualcuno potrebbe venire a chiedervi come siete riusciti a finanziare questa spesa. Da ieri, anzi, diciamo che l'operazione si è conclusa, questa prima tranche dell'operazione ieri a mezzanotte, si è messa in moto la macchina dello spesometro. Negozi, professionisti, esercizi commerciali e presto anche le banche dovranno segnalare al fisco quando un cliente effettua una spesa o una transazione finanziaria superiore ai 3.600 euro. E se verrà a galla una situazione poco chiara, ecco Zacchete. Che il fisco potrebbe chiamare a rapporto il contribuente con il cosiddetto redditometro. L'obbligo di cui questa prima parte di obbligo, quello concluso ieri sera a mezzanotte, riguarda potenzialmente 5 milioni di partite IVA. Mi guardi sempre, io sono, devo dire che insomma, se uno ha fatto le cose per bene non rischia nulla. Direi di sì. Neanche quelle due giacchette che ho preso nell'outlet non va, no? Sì, ecco, sì, con la scusa delle figlie adesso, qua mi fai shopping tutti i giorni, ti devo controllare. Questo non è assolutamente vero. Comunque ho dovuto prendere due giacchette perché ho dovuto. La mia bambina va in tribunale e va giusto a fare la pratica e quindi ci vuole la giacchetta. Comunque non hai speso 3.600 euro di giacche? Assolutamente ecco. No. Però non ne spenderei neanche per fare una vacanza. Ma supponiamo una vacanza per tutta la famiglia, per un mese, in qualche località esotica, oppure un'auto nuova. In questi casi dobbiamo fare attenzione a qualcosa? Ci vengono a fare le pulci, cioè, perché la macchina costa. Sì, qua è come dire, tu temi che befera, ti chiami al rapporto. Qua ti volevo, cara mia. Però ti posso dire. È qua che cade l'asino. No, non sei un asinello, dai. Sei brava perché sei molto attenta alle cose che diciamo di denari. Non dobbiamo cadere in questa preoccupazione ingiustificata, anche se molti italiani effettivamente hanno paura di questi controlli, pur non avendo niente da temere. Allora, diciamolo subito, tranquillizziamo chi ci ascolta con chiarezza. Redditometro e spesometro sono fatti per scovare gli evasori fiscali più sfacciati. Se vi comportate con correttezza, nessuno verrà a chiedervi giustificazioni sui vostri redditi o sulle vostre spese. Ma nel caso in cui ve lo chiedessero, non ci saranno problemi a spiegarsi. Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore, così? Esattamente così. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. No, bisogna fare subito chiarezza, perché altrimenti si diffonde una psicosi collettiva, non si spende più, già c'è una crisi della domanda in Italia, già abbiamo una crisi nera, quindi insomma facciamo tranquillizziamo i nostri ascoltatori. Lo spesometro e il redditometro, come diceva Debora, servono soltanto per colpire gli evasori, cioè quelli che dichiarano poco, molto poco, molto al di sotto delle loro reali possibilità. Il fisco si avvale anche di questi metodi, sostanzialmente ricostruendo la capacità di spesa, cioè con quello che è stato speso nel corso dell'anno, e mettendolo a confronto con quello che è stato dichiarato. Se effettivamente lo scostamento è parecchio elevato, a quel punto scattano una serie di controlli approfonditi. Ma va fatta un'ulteriore precisazione: il redditometro è stato oggetto di un profondo restyling, sta ora per ripartire, e sono state previste molte garanzie anche nella fase di confronto col contribuente. Quindi, se per puro caso vi trovaste fra i 20.000 italiani, che saranno controllati con reddito, su quasi 60 milioni di abitanti, quindi ecco, molti siamo meno sotto di 0,1%, ecco. Comunque, tanto per dirla, tanto dei per contribuenti, dire qualche numero, tanto per essere chiari, no? Dei contribuenti italiani, se vi trovasse sfortunatamente per errore nella rete del fisco e siete in regola, avrete la possibilità di dimostrare. Esatto, però qui già parliamo della fase redditometro. Noi siamo ad una fase precedente, che è quella dello spesometro, una fase che in realtà consta a sua volta di due momenti. Quello che si è perfezionato, diciamo così, ieri sera a mezzanotte, e un altro che invece ci sarà, si concluderà il 30 aprile con un impegno per il sistema bancario. Partiamo però da quello che è successo entro mezzanotte di ieri sera. Chi è stato, tra virgolette, chiamato a rapporto? Allora, sostanzialmente tutti i commercianti, gli esercenti, ma anche i professionisti che hanno effettuato sia vendite di beni e servizi, cessioni di beni e servizi nei confronti dei contribuenti persone fisiche, quelli praticamente come noi, no? Che non abbiamo una partita IVA, sia per quanto riguarda le fatture emesse nei confronti di altre partite IVA, perché questo è un obbligo, un adempimento che viaggia su due gambe, sostanzialmente due binari. E in questo caso chi paga l'IVA ogni trimestre, ogni tre mesi, doveva comunicare entro ieri, 22 aprile, tutte le operazioni effettuate appunto verso privati da 3.600 euro in su e tutte le operazioni fatturate essenzialmente nei confronti di altre partite IVA nel corso del 2013. In realtà, faccio una piccola precisazione, cioè era già una seconda scadenza quella di ieri, sì. Per chi versa l'IVA mensilmente aveva come deadline il 10 aprile. Adesso ci sarà l'ulteriore terza scadenza per lo spesometro, che però riguarda soltanto le banche e gli istituti di credito che emettono carta di credito, perché ovviamente essendo poi una cifra che si incrocia anche col limite del contante, è verosimile che si paghi da 3.600 euro in su con carta di credito, strumenti o bancomat tracciabili. Perfetto. Esatto. E quindi a quel punto chi ha emesso la carta di credito o il bancomat sarà tenuto lui a comunicare i dati al fisco per quelle transazioni che sono state superiori a 3.600 euro. E allora 800 24 00 24, vedo già che i centralini si sono scaldati non poco. Se siete esercenti, commercianti, partite IVA, ma anche se avete un'impresa agricola, perché questo ambito anche è toccato da questo impegno, oggi chiariamo tutti i dubbi su come va effettuata questa comunicazione relativa alle spese più sostanziose dei vostri clienti. Ma noi ci rivolgiamo anche agli stessi clienti e quindi a tutti voi che ci ascoltate. Chiamateci o scriveteci se avete fatto una spesa particolarmente impegnativa, elevata lo scorso anno. Che cosa avete comprato? Soprattutto cosa avete comprato, se vi siete fatti un bel regalo e se siete preoccupati per come potreste dovreste appunto giustificarla al fisco. Ci piace giocare, già Nicoletta mi aveva un po' anticipato con voi, visto che tanti staranno pensando che magari una spesa da 3.600 euro se la sognano. Proviamo a sognare insieme. Che cosa sareste disposti a comprare con questa cifra? Scrivetecelo in un tweet all'account @cuoredenari e noi lo eleggeremo il tweet più cuore denari di oggi. Monica, sono le 7 del mattino. Io non voglio fare ginnastica, è finita. Scherzi, ormai manca solo un chilo al traguardo. Stressiamoli, consumiamoli, abbattiamo i cuscinetti di grasso. Sai che non mi importa niente dell'ultimo chilo, anzi ci tengo a quest'ultimo chilo. E anche per il cuore, nella seconda parte della trasmissione, a partire dalle 11.45, parleremo di spese, ma le nostre non vanno ad intaccare il portafoglio, quanto piuttosto la nostra riserva di energia. Ogni giorno infatti il nostro organismo spende energia per mantenersi vivo e vitale, quindi questa viene consumata dal metabolismo basale, che è una sorta di costo fisso, diciamo così, diverso da persona a persona, ma tutti ce l'abbiamo. In più aggiungiamo le spese per muoverci, camminare, andare a lavorare, insomma per svolgere tutte le attività quotidiane. Però a volte, lo sappiamo bene tutti, i conti non tornano. Capita talvolta che il nostro metabolismo sembri più orientato a risparmiare. Ecco allora spiegati quei chili in più. Ma anche chi mantiene un peso regolare, a volte usa fatica, stanchezza, astenia, insomma il classico mal di primavera, che molti spiegano come un consumo esagerato di scorte, di energia o tirato troppo la corda. Allora, vi sentite anche voi così? Avete l'impressione di spendere male le vostre energie, di essere scarichi? Siete magari sovrappeso e nonostante gli sforzi nulla si muove, tutto si deposita? Abbiamo convocato il nostro dottor Filippo Ongaro per darci una mano oggi, arriverà puntuale alle 11.45. 65 e cercherà di aiutarci a capire come far spendere un po' di più il nostro metabolismo e come magari ritornare in forze se di energie ne abbiamo speso troppo, magari lavorando o perché no andando ad allenarci. Quindi 800 24 00 24 per i risparmiosi e per gli spendaccioni. Per il cuore non giochiamo con un tweet? Sì. Allora, dato che abbiamo parlato di metabolismo, sì, cosa ti viene in mente? Se il metabolismo... Il mio che è troppo lento perché rispetto a quello che vorrei mangiare, secondo me va troppo piano. Quello di Giovanni è perfetto. Oh, guarda, un magrolone. Tu sei un vero magro, un vero? Un magrolone, sì. Sono abbastanza magro, però... Tu sei di quelli che mangiano e non ingrassano mai, che hanno un metabolismo che mangia anche le gambe del tavolo, vero? Sì, abbastanza, per fortuna. Vabbè, ma il giovane, cioè, potrebbe essere il nostro... No. No. No. No, direi di no. Figlio, no. Fratello maggiore, fratello minore. Anche la corte. Allora, se il vostro metabolismo fosse un cartone animato, chi sarebbe Speedy Gonzales, Pumba del Re Leone, la bella addormentata nel bosco? Scrivetecelo all'account @cuoredenari e leggeremo i vostri tweet di cuore e di denari. Una monetina per te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti e l'altra per sparire. Una monetina per... Qui non parliamo di monetine, ma parliamo di spesone. Dalle spese del nostro organismo torniamo a quelle del nostro portafoglio e allo spesometro. Allora, Giovanni Parente, abbiamo detto che entro la mezzanotte di ieri negozi, partite IVA erano tenuti a comunicare intanto a chi? All'amministrazione fiscale, all'Agenzia delle Entrate, le spese sostenute dalla propria clientela se queste siano state superiori lo scorso anno ai 3.600 euro. Spese appunto relative al 2013. Facciamo un quadro un po' più dettagliato delle categorie interessate, perché prima ho citato anche le imprese agricole. Sì, esattamente. Essenzialmente sono comprese appunto quasi 5 milioni di partite IVA, quindi che cosa vuol dire? Le imprese, sia appunto in veste societaria, sia di ditte individuali, sia appunto insomma delle varie forme di impresa, i commercianti, le imprese agricole. Sull'leasing c'è una particolarità, è sostanzialmente vero, che questo tipo di comunicazione in qualche modo può sostituire una comunicazione ad hoc che è prevista per gli operatori del leasing, quindi nel senso, facendo questa comunicazione si evita la comunicazione che è prevista, che ha scadenza sostanzialmente entro la fine di giugno, perché Deborah, permettimi di ricordarlo, lo spesometro non è un nuovo adempimento, cioè un adempimento che è stato introdotto da una legge da un decreto legge del 2010, ha già vissuto almeno tre grandi invii di dati, cioè che sono l'ultimo dei quali è stato appunto scaduto appena pochi mesi fa, il 31 gennaio 2014, che era relativo al 2012, ed è stato oggetto di profondo restyling. Profondo restyling perché si era posto all'inizio un problema di selezionare o meno le operazioni fatturate da comunicare, sì, al fisco, che creava un ulteriore problema di adempimenti appunto alle imprese, e quindi insomma in qualche modo era intervenuto un decreto dell'aprile 2012 per dire togliamo la soglia dei 3.000 euro che era prevista appunto per le operazioni tra partita IVA e ritorniamo a una vecchia costruzione del passato che si chiamava elenco clienti fornitori, sì, detto più semplicemente tutte le fatture che emetto e ricevo le devo, ecco, comunicare. Allora ti chiedo, se è qualcosa che gli operatori commerciali, le partite IVA, i professionisti conoscono già, per quale motivo si scatena ogni volta che si ripropone appunto a livello di cronaca la questione della scadenza, si scatena così tanta polemica? Perché c'è un problema nel fisco italiano che probabilmente è stato sollevato a tutte le associazioni di categoria. Non è l'unica comunicazione che devono fare le imprese, i commercianti, i dettaglianti. Sono state introdotte per finalità nobili, cioè combattere l'evasione fiscale, introdotte una serie enorme di comunicazioni. Queste sono a scadenza annuale, ma pensiamo ad esempio a chi ha contatti o rapporti commerciali con paesi che sono considerati blacklist, cioè paradisi fiscali, no? dalla giurisdizione italiana fiscale, diciamo, dal fisco italiano. E in quel caso c'è una comunicazione periodica che va fatta trimestralmente, mensilmente, in cui devo andare a comunicare se, per esempio, ho venduto, se ho acquistato essenzialmente a paesi che il fisco italiano continua a ritenere paradisi fiscali. San Marino è stata appena è uscita fuori da questa blacklist, però c'è una comunicazione ad hoc per gli acquisti che insomma, faccio a San diciamo, Marino. Si sentono un po' i professionisti italiani vessati, su questo hanno ragione, è anche vero che, come dicevi tu, lo spirito di tutto questo impianto è nobile, combattere l'evasione fiscale, per cui mettiamoci tutti quanti un po' una mano sulla coscienza e cerchiamo di accettare anche questi controlli, dei quali non dobbiamo temere nulla se appunto ci siamo comportati per bene. Ecco, un'altra cosa che adesso so che già Nicoletta la vedo, che c'è un ascoltatore che vuole sentire gli ascoltatori, e ha ragione, adesso li sentiremo. Come al solito poi tutti i messaggi passano male e molti stanno dicendo ma insomma allora io non posso fare una spesa di un certo tipo perché subito avrò un controllo. Non è così, stiamo parlando di fasi di comunicazioni che le aziende devono fare al fisco, il che si potrebbe fermare tutto là. Il problema è che se risulta una spesa che una persona ha fatto particolarmente importante con un operatore commerciale, poi da quando scatteranno i controlli del redditometro sul reddito di questa persona risulteranno invece appunto redditi risibili, è lì che si accenderà, come dire, il semaforo rosso di Attilio Befera. Però stiamo parlando in un Non Attilio Befera, perché potrebbe essere scadenza di mandato, però, già è vero che a maggio adesso sta terminando il suo incarico, quindi cerchiamo anche di capire bene, però mi rendo conto che non è semplice quello di cui stiamo parlando. Chi sentiamo? Sentiamo Nicola. Certo, e poi David da Roma. Nicola, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Certo, sì. Forte e chiaro. Perfetto, grazie di esistere innanzitutto. Anche se parliamo di questo tema che non piace a nessuno, Nicola? Vabbè, ma almeno ci siete voi che ci date le informazioni giuste e chiare. Grazie di tutto, veramente. Niente, la mia domanda è semplicissima. Io ho dovuto fare un intervento dentistico, ho speso circa 10-11 mila euro l'anno scorso. Tra me e mia moglie, chiaramente ho un reddito abbastanza alto, tra me e mia moglie tocchiamo circa i 70-80 mila euro. Quindi che cosa temi, Nicola? Non lo so, io non temo niente, soltanto posso essere soggetto anche a questi controlli. E poi un'altra domanda, per quanto riguarda, siccome in genere pago sempre con carta di credito, loro possono fare il cumulo di ciò che spende in un anno? Perché senz'altro spendo più di 3.600 euro in un anno. No, Nicola, non proprio qua, siamo alla fantascienza, stia tranquillo, lei si curi i denti perché Nicoletta così è contenta che si prende cura della sua bocca. Assolutamente, perché ricordiamo che i denti, una bocca non curata è un rischio anche per il nostro cuore, quindi brava, non solo per il nostro sorriso, quindi attenzione, se avete a cuore il vostro cuore, curate i denti. Mi viene in mente che invece, che ne so, Nicola dice ho documentato tutto, quindi evidentemente il suo dentista ha rilasciato fatture regolari, e quindi che cosa deve temere il nostro ascoltatore? No. Ripetiamolo, se lui è in regola dichiara tutto e non deve temere assolutamente niente. È bene precisare che proprio per il campione di in qualche modo di maxi scostamenti che il fisco prenderà in considerazione, è ragionevole ritenere che si tratterà veramente di casi molto eclatanti. Qual è la questione di fondo? È parzialmente vero, insomma, che le operazioni cumulate non si comunicano, perché non fa parte dello spesometro, però fa parte di un'altra comunicazione, che è quella per la superanagrafe dei conti correnti, per cui praticamente il saldo di inizio anno e di fine anno e il cumulo delle operazioni, la somma cumulata, quindi insomma delle operazioni in entrata e in uscita, anche delle carte di credito e bancomat, vanno comunicate al fisco. Sì, ma sono comunicazioni per le quali Nicola non deve temere nulla. Ma quanto comunichiamo, ragazzi? Infatti, che cosa se ne faranno poi di tutti questi date? Il modo vero è questo. Banche dati affollatissime che naturalmente vedranno incrociare anche i risultati di tutte queste operazioni di comunicazione. E secondo te che cosa emergerà? Ecco, il profilo, la sfida vera è questa qui. Allora, bisogna ricordare che la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, l'anagrafe tributaria è il grande cervellone del fisco italiano, tanto per intenderci. Ci siamo pure io e te, ci siamo tutti. Le tue giacche, fiscale, la mia palestra, tutto. Anche le scarpette. Quindi conta già attualmente 128 banche dati, che hanno finalità, obiettivi diversi. Però... qual era l'importanza di quell'analisi che era stata fatta alla Commissione parlamentare di vigilanza? Che quelle banche dati purtroppo faticano a incrociarsi, sono banche dati di comunicazioni, certo, che non comunicano fra di loro, ecco, quindi, insomma, e quindi diciamo che molte potrebbero essere anche un doppione l'una dell'altra. Allora facciamo un appello a Matteo Renzi: dopo la partita di calcetto, che poveretto non farà più, chiediamogli uno sforzo di semplificazione, perché lo promette tanto. E va bene, allora andiamo a sentirli. State richiamata all'ordine, Roma, venga con noi, poi torniamo subito dopo insieme. A tra poco. Cuore e denari. Lo sapete cos'è che mi piace di più dell'oro? È che ne ho un sacco. Perché l'oro è così prezioso, zio Paperone? Perché è molto raro. Infatti posso vendere un pezzettino d'oro per un sacco di quattrini. E con l'oro si può anche fare una bella partita a dama. Ma non è necessario essere Paperon dei Paperoni per sostenere, magari dopo averla ben ponderata e progettata, una spesa più sostanziosa del solito. Con l'arrivo dello spesometro, le nostre spese più alte, quelle sopra i 3.600 euro, verranno però monitorate. Ma se applicassimo lo spesometro al nostro metabolismo, che cosa succederebbe? Ditemelo voi all'800 24 00 24. Questo è il tema che affronteremo tra poco con il dottor Ongaro. Anche Deborah è molto contenta che finalmente torna a trovarci. E certo, gli faccio un punto della situazione con le mie bacche di goji. Molti sono convinti. Noi abbiamo chiesto, a proposito, abbiamo introdotto questa parte della trasmissione con Paperon dei Paperoni, sì. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di giocare con noi mandandoci due tweet, uno per il cuore e uno per i denari. Per il cuore, a proposito di Paperon dei Paperoni, abbiamo chiesto di raccontarci se il vostro metabolismo fosse un cartoon, quale sarebbe, e molti ci hanno già risposto. Arriva un ascoltatore che dice Roberta, che ci dice che il cuore, il metabolismo è paragonabile alla Bella Addormentata. Per i denari invece vorrebbe spenderli con una nuova cucina. 3.600 euro ci viene anche un signor lavoro, direi. Tra l'altro si può anche scontare con il fisco, quindi potrebbe anche avere un beneficio fiscale, per cui noi auguriamo ai nostri ascoltatori di poter realizzare questi sogni. Allora, se avete speso, se questa cosa dello spesometro vi mette un po' di ansia, qualche dubbio, qualche preoccupazione, 800 24 00 24, c'è David da Roma in linea con noi. E se invece volete misurare le spese del vostro metabolismo, che improvvisamente, magari per colpa dello spesometro, è diventato troppo risparmioso, oppure le spese le avete già fatte e vi sentite degli stracci, penso ad esempio a chi si sta allenando molto, è tempo di maratona, e molti dei nostri ascoltatori ci scrivono per raccontarci che sono un po' alla frutta. 800 24 00 24. David, buongiorno. Ristoratore, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Salve, io volevo chiedere al vostro ospite, che all'inizio ha detto che questa cosa non dovrebbe preoccupare. Lei ha fatto ieri sera intanto la trasmissione dei dati, David? No, ancora no. Quindi... avrà avuto le sue ragioni. David, vorrei capire anche che cosa succede, magari chi è un po' in ritardo con questa comunicazione. Parte, certo. Tutto quanto, ma io mi chiedevo un'altra cosa, ma io facevo banchetti interessati, mi immagino adesso che dovrei, tipo tra virgolette, denunciare chi viene a fare un banchetto, una cosa del genere. Penso che sia ancora più complicato di prima. Però non è una denuncia, David, però la vive come una spiata. Esatto, che voglio dire, altrimenti la privacy non ci avrebbe messo lo zampino in tutto il meccanismo di spesometro e redditometro. Quindi David ha per certi versi appunto ragione. La privacy, poi l'autorità garante ha chiarito alcuni aspetti. Detto questo, lui dice: i banchetti che facevano da me, per i quali appunto molti clienti spendevano ben al di sopra di questa cifra, io rischio di perderli. Ho letto un po' tra le righe della sua osservazione, ma forse la contestazione è questa. Però rischia di perderli lui, rischiano di perderli anche gli altri. Cioè non è un obbligo che è selettivo sul tipo di contribuente, ecco. Quindi insomma è un obbligo che riguarda tutti quanti le partite IVA, quindi insomma è stato introdotto per tutti, può rivelarsi una penalizzazione per tutti. Purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, è stata messa in moto una macchina antievasione che si può contestare. D'altronde poi, se si va lì a fare, che ne so, un pranzo per una cerimonia, si spende una cifra superiore, per quale motivo non si dovrebbe dire che si fa una festa con la propria famiglia, che si vuole regalare questo pranzo a tutti? Quindi qual è, cioè, oltretutto il ristoratore non deve mica comunicarlo al cliente: guarda, attenzione che se paghi questa cifra io poi devo fare questa comunicazione. No, in teoria non sarebbe tenuto a comunicarlo. È vero che però da appunto 3.600 ore in su è necessario prendere il codice fiscale. Eccolo là, quindi ci siamo arrivati. No, perché altrimenti non è possibile associare chi fa la spesa. Ma è lì che volevo portarti. Infatti, quindi allora fammi capire, David, arriva una signora che vuole organizzare e pagare il pranzo per la comunione della sua nipotina. Spende 5.000 euro, il ristoratore gli deve chiedere il codice fiscale perché gli servirà, magari adesso non per ieri, ma per il prossimo. Anche per il prossimo anno. Per la prossima scadenza, appunto, gli servirà fare questa trasmissione di dati. Se il cliente dice no? Se il cliente dice no, ovviamente manca. Che cosa rischiano entrambe le parti? Ma sul cliente non c'è una specifica sanzione, però bisogna dire che insomma sulle sanzioni previste per chi non effettua la comunicazione o la effettua con dati carenti, mancanti o non veritieri, è prevista una sanzione che va da 258 a 2065 euro. Posso dire che non è neanche particolarmente... È il tipo di sanzione prevista per quasi tutte le comunicazioni telematiche all'Agenzia dell'Entrata. Ecco, questo bisogna dirlo. È naturale, allora, qual è lo spirito dello spesometro? È che tutti collaborino, si collabori dal basso nella lotta all'evasione. Però ovviamente io posso ben capire qual è il dramma, cioè, di un ristoratore, di un esercente che dice davanti alla possibilità di un affare, cioè di in qualche modo di lavorare e di fatturare. Si deve sentire un po' in difficoltà a chiedere il codice fiscale, un po' come ci sentiamo noi quando invece chiediamo la fattura a quel professionista che non ce la vuole dare, che nicchia un po' su questo, quindi diciamo che abbiamo pareggiato i conti. Ecco, posso essere cattiva stamattina? Diciamo che abbiamo pareggiato i conti. Non è che non ci capita, Nicoletta. Non hai mangiato le bacche stamattina? No, stamattina ho mangiato un po' di pane, l'ho mangiato perché non posso, un po' di acido, no, però sono cose che capitano, perché penso che a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano. E molti dei nostri ascoltatori ci riscrivono: lo Stato protegge i potenti, va a battere cassa sempre dai soliti, vige ormai un regime fiscale, economico e politico, questa è la realtà. Altri, Gianmario da Milano ci scrive: queste sono, va bene, insomma, fregnacce, non posso tradurlo, come lo tradurresti? Ma guarda, sei stata di una chiarezza. Uno contra all'estero e risolve tutte le follie italiane. Ma, insomma, i nostri ascoltatori compra all'estero in che senso? Senti, no, parlavamo prima di clienti che si rifiutano di dare il codice fiscale, questione che solleva Herman da Udine, che saluto all'800 24 00 24, continuate a chiamarci per le vostre domande sullo spesometro, ma anche su quelle del vostro metabolismo, se spende poco, tanto, siete soddisfatti o no. Herman scrive: il mio metabolismo è ancora alle prese con il cenone di Natale 2012, pensa cosa si sarà mangiato. Non sei più mosso di lì. Herman, buongiorno. Herman. Sì, salve, buongiorno. Io faccio parte della categoria dei commercianti e devo dire che siamo accusati, diciamo, del 90% dell'evasione, dove noi possiamo permetterci di creare il nero, di fare il nero. Questo spesometro, no? Il cliente entra, gli dici che hai bisogno del codice fiscale, lui ti chiede di escamotage, ti dice fammi due fatture figuriamoci, fiscali, dividimi gli scontrini fiscali, ti faccio due bonifici separati. Sì, sì. Poi c'è quello che ti dice: no, non voglio nemmeno la fattura, perché io non la recupero e non so cosa farmene. Sì, sì, allora, visto che il nostro settore, in particolare il settore dell'arredamento, ha un calo dal 2007 certo, spese inferiori a queste del 45%, no? È difficile per noi dire di no. Tante volte. Certo. No, ma Herman, noi la comprendiamo perfettamente, peraltro chiaramente in un mobilificio fare una spesa inferiore a questa cifra è abbastanza difficile. Un settore in ginocchio, Herman lo racconta, al punto che il governo ha riproposto i bonus fiscali appunto per rifare l'arredamento della casa. Detto questo, come può tutelarsi un commerciante che ha davanti un cliente che gli chiede di chiudere un occhio? Il commerciante non può fare altro che spiegargli quali sono le regole del gioco da questo punto di vista, cioè non può ovviamente costringere un cliente a dargli il codice fiscale. Se il cliente sceglie di in qualche modo di parcellizzare l'operazione, ricordiamo che in qualche modo poi insomma in qualche modo se l'operazione è unitaria diventa in qualche modo quasi facilmente riconducibile. Poi gli scontrini, se sono vicini anche nell'orario, non è che sia poi così difficile risalire ad operazioni non chiare, quindi non crediateli. È chiaro che però se non dà il codice fiscale come fai a sapere che l'ha fatta lui quella spesa? Cioè, nel senso... Quindi questo, altre questioni. Gianluca, commercialista, ci scrive, tratta dal film trinità. La legge legge e, per quanto possa sembrarvi strano, va rispettata, compreso lo spesometro. Ma infatti ci sono molti ascoltatori che dicono: non abbiamo nulla da temere, perché quello che guadagno lo spendo, diciamo, fare la relazione è molto facile. C'è chi ci chiede, un'ascoltatrice tra i primi messaggi che sono arrivati, che dice: se io ho 20-30 mila euro in casa, risparmio mio che non voglio mettere in banca e me lo tengo lì, poi magari faccio dei lavori nella mia abitazione, e chiaramente questi lavori magari chiedo la detrazione fiscale, quindi al fisco devo denunciarli. Come faccio a dimostrare che li ho pagati con questi soldi che avevo in casa? A parte il fatto che bisogna che sia un'operazione da 2 milioni di euro per poter essere chiamato dal fisco, primo. Cioè che deve essere veramente spropositata rispetto a quello. Poi comunque nella partita del redditometro si può dimostrare che c'è un incremento patrimoniale dei risparmi messi da parte, quindi insomma, se sono dei risparmi messi da parte. Quindi nessuno vi viene a chiamare per un'incongruenza di 100 euro, 200 euro, 1000 euro. No, credo. È altamente improbabile, diciamo così. Cioè, non voglio in qualche modo ipotecare quelle che sono, insomma, poi scelte e strategie che sono fatte dall'Agenzia delle Entrate. Però sembra che, visto il numero di controlli che decideranno di fare per quest'anno, sia altamente improbabile. Allo stesso modo, se dovesse capitare, ci cercherà di spiegare da dove sono arrivati quei risparmi, no? Che sono stati accumulati e tenuti in casa legittimamente, insomma, a meno che non siano oggetto di furto. Certo. Però ribadisco, qui stiamo già parlando della fase successiva. Rimaniamo a quella scadenza di ieri sera e a quella del 30 aprile. Le banche invece il 30 aprile cosa devono fare? Devono comunicare appunto le operazioni che sono di valore pari o superiore a 3.600 euro che sono state pagate con carta di credito, ma in qualche modo anche in quel caso loro la gestione gestiscono in automatico, perché loro visualizzano la transazione da 3.600 euro in su, la scartano, la associano al codice fiscale e comunicano. Quindi c'è già transazioni. Una comunicazione, perché c'è un rapporto con l'intermediario già aperto da parte del cliente che ha già tutti i dati. Esatto. Le ultime due domande che prendiamo oggi sono di Alberto dalla provincia di Brescia e Donato da Milano. Donato, buongiorno. Eccolo qua. Buongiorno. Ci dica, rapidissimo, la ringrazio. Certo, io non voglio pensare per forza male, però a parte l'ovvietà del fatto che secondo me faremo più nero di prima, non meno nero di prima. Ma parlando per esempio del ristoratore che vi ha chiamato prima, chi gli vieta di fare al marito una fattura di 1.800 euro, alla moglie un'altra da 1.800 euro? Nessuno glielo vieta, Donato. Trovata la legge. Allora, l'importante è intanto che due fatture vengano fatte, perché qua non mi pare di poco conto anche questo aspetto. Detto questo, magari il fisco, se proprio vuole essere fiscale, perché la parola è mutuata da questo, può andare appunto a verificare il fatto che ci siano due fatture in un nucleo familiare che arrivano dallo stesso ristorante, non lo so. Ma da voler essere proprio rigidi, diciamo che l'obiettivo del fisco, perché abbiamo detto che è una comunicazione che si basa su due gambe, perché l'obiettivo del fisco non è soltanto avere i dati su chi, sul consumatore finale che spende. Secondo me quella parte lì è veramente poco rilevante nella comunicazione, è quella di impatto più popolare di cui parliamo stamattina. Ma pensate a che cosa significa avere tutte le operazioni fatturate nel corso dell'anno. Significa avere la tracciabilità completa di movimenti di un'attività di impresa o di uno studio professionale che sono stati effettuati nel corso del 2013. Ed è quello il meccanismo vero. Cioè significa essenzialmente fare una, come un termine molto in voga adesso, di una disclosure della propria attività di impresa e dimostrare al fisco effettivamente quanto è stato fatturato o meno. Perché poi è lì che vanno, che ragionevolmente andranno a concentrarsi i controlli. Non so, Alberto, non ce la facciamo. Insomma, forse Alberto, dai, magari veloce. Per andare in onda il traffico, tutti attenti al traffico. Alberto, ce la faccia sta domanda in due secondi. Velocissimo. Allora, guardi, intanto complimenti per la trasmissione. Volevo sapere, io ho redditi da capitale, non redditi da lavoro. La mia paura è, posso stare tranquillo avendo ereditato dei beni immobili? Ma queste eredità non le saranno mica piovute dal cielo, le potrà dimostrare Alberto? Certo, però il mio reddito è risicabile, ovviamente, perché io vivo con i miei risparmi, con il mio Vabbè, ma è tutto documentato, sono tracciato, ma c'è. Le scriviamo in privato, Alberto, prendiamo la sua mail. Grazie. Esattamente, ricordate di scriverci a Cuore Denari, i nostri esperti vi risponderanno. Andiamo al traffico e poi lo salutiamo dopo, Giovanni, certo, vero? Vabbè. Cuore e Denari. Vai dallo sciacquettiere qui alla cantonata, E chi è questo sciacquettiere? Il pizzicagnolo, il salumiere. Il casaduglio. E parmigiano. Il bottegaio. Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 chili di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa, perché non la digerisco. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. Ti fai dare 1 chilo di salsiccia. Vogliamo fare una bella padellata di uova? Assicurati che siano fresche, Tu le agiti. Se sono fresca te le piglio, se no desisti. Eh sì, quando si parla di spesa si pensa subito al portafoglio, ma ci sono altre spese che quotidianamente fronteggiamo senza intaccare il nostro conto corrente e senza rischiare di allertare lo spesometro che fa tanta paura agli italiani, in particolare agli ascoltatori di Cuore Denari. Parliamo di, in questa seconda parte della trasmissione, sempre di spese, ma di spese più che necessarie, vitali, dato che permettono al nostro organismo di svolgere le normali funzioni vegetative, insomma di mantenersi in vita. Sono queste che determinano quello che viene chiamato metabolismo basale, che è un costo fisso, diverso da persona a persona, ma è un costo fisso, a cui si vanno aggiunte altre spese, che sono quelle che sono necessarie a svolgere le normali attività quotidiane. Deborah va in palestra, si alza al mattino, viene qua a correre, riparte, fa la borsa, anche lei avrà, no, spenderà, spende anche la donna di denari. Dal punto di vista però della salute, possiamo dire che finché c'è spesa c'è speranza, o meglio, finché c'è spesa c'è vita, e quindi noi tutti ci auguriamo di spendere, spendere bene a lungo, ma a volte, come abbiamo anticipato, i conti non tornano. Il nostro metabolismo sembra poco propenso a spendere, più orientato al risparmio. Vi abbiamo chiesto di descriverlo con un tweet, paragonandolo a un cartoon. Giuseppe ci scrive che il suo metabolismo è Don Chisciotte della Mancia, cavaliere errante, 50 anni e non sentirsi. A volte il metabolismo si inceppa, diventa risparmioso, le ragioni sono tante, diverse tra di loro, ma il risultato è uno: i chili in più. Però oggi vorrei parlare, a proposito di energia, anche di chi, indipendentemente dal peso, anche se è in linea, si sente un po' a corto di energia e dice: Deborah, quello che ci diciamo io e te, ho esagerato, o non ho calcolato che ero stanco, sono arrivata alla frutta, ho raschiato il fondo del barile, sono andata in palestra tutti i giorni. Non mi guardare così. Ho esagerato un po', guarda, insomma. Se si vedessero i risultati con tutto lo sforzo che faccio, sarei Miss Universo, invece, come tu sai, tu non sei è così. Miss Cuore Denari, ecco, che vale molto di più di Miss Universo. Giovanni, parla. Assolutamente sì. Che tu abbiamo tenuto qui per fare questa, no, questo sketchetto. E dobbiamo salutare, risponderà in privato, Giovanni mi aiuterà a rispondere a tutti gli ascoltatori che ancora in tanti stanno scrivendo quesiti sullo spesometro. Grazie Giovanni. Grazie a voi, buongiorno. È veramente un po' difficoltoso, dispiace andare via da Cuore Denari, vero? Ti tantissimo. Vedo dalla faccetta. No, ma con voi ci sto benissimo, quindi è un... Diventano lieti anche questi temi un po' complessi. Ogni addio un trauma. Vai a compilare la tua dichiarazione dei redditi, va, che così ti tranquillizzi. Grazie Giovanni. Grazie Giovanni. Allora, temete che il vostro metabolismo si sia addormentato, dove invece è diventato un po' come lo paragonate, come il nostro amico su Twitter, il Don Chisciotte? Siete scarichi di energia, avete quello che si dice il mal di primavera? In primavera siamo tutti stanchi. 800 24 00 24, sfruttate questa straordinaria opportunità. In linea con noi è tornato a trovarci il nostro dottor Ongaro. È nostro, è qua che ce lo tocca. Più. Buongiorno. Buongiorno a voi, io sono sempre vostro. Ma è tutto niente, nostro. Vedi che... Siamo anche un po' gelose, tra l'altro. Dottor Ongaro, allora, io do subito spazio alle telefonate, così la nostra barriera rosa è contenta, perché non facciamo attendere gli amici che ci stanno chiamando al nostro numero verde. Abbiamo Gianluca da Anzio e Graziano da Biella. Gianluca, buongiorno. Grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Eccoci qua. Buongiorno a tutti quanti voi. Mm-hmm. Piacere di conoscervi. Vada Gianluca. Grazie. Allora, gentilmente, io ho 46 anni, 1,93 m, sono ex sportivo, ma questa è storia proprio di altri tempi, paleozoica. E io un po' di mesi, veramente un po' di anni, un paio, due, tre anni, che comunque mi sveglio sempre più stanco, mi sveglio veramente scarico. Cioè sì. La mia soglia di tollerabilità agli sforzi, qualsiasi, alla quotidianità, non riesco, mi stanco molto spesso, e sudo un po' troppo, insomma, al di là che sono stato operato di tiroide, diciamo, quella parola lì. Ma Gianluca, lei ci ha detto quanto è alto? 1,93 m, sì, sono 114 kg. Ok, mi mancava il dettaglio del peso. Il suo metabolismo a che cosa lo paragonerebbe? È proprio un macinino di non so che cosa, c'è cioè una Ciccio di nonna papera, Speedy Gonzales, è veloce o lento? No, lento, lentissimo. Allora, chiediamo l'aiuto del dottor Ongaro. Dottor Ongaro, c'è chi di energie sembra non spenderne, dà colpa sempre al metabolismo, e chi invece ha l'impressione di spenderne troppo e di essere in riserva. In questo caso non sono i chili a preoccupare, ma, come ci diceva il nostro ascoltatore, quella difficoltà a fare le cose. Sembra un po' che la parola energia si presti a due letture differenti, anche se in alcuni casi sembrano due facce della stessa medaglia, perché la storia del nostro ascoltatore un po' la racconta. Ma direi sì, la storia dell'ascoltatore lo racconta. Per chiarezza possiamo dire che da un lato, insomma, c'è la situazione del metabolismo cosiddetto lento, che sembra spendere poco e che quindi rende i nostri sforzi di rimanere in linea molto, molto difficili e un po' frustranti, perché invece la tendenza è accumulare chili anche se non si mangia molto. La seconda è chiaramente invece quella della stanchezza, di cui parlava adesso Gianluca, può avere anche questo, devo dire, varie origini, nel senso che qui si parlava di un problema di tiroide, che sicuramente può ovviamente riflettersi sui livelli di energia. Un altro fenomeno poco conosciuto è quello dell'affaticamento surrenalico. Le surrenali sono due piccole ghiandole che stanno sopra i reni e che servono a gestire lo stress e a produrre ormoni che sono fondamentali nel recupero e nella gestione della fatica, e a volte tirare la corda per troppo a lungo, per troppi anni, le spompa un pochino, e quindi questa capacità si perde. In questi casi bisogna chiaramente rivolgersi a un medico e fare degli esami specifici. Diciamo che il denominatore comune di questi problemi comunque rimane sempre lo stile di vita. Ci sono spesso degli errori che possono essere alimentari o anche nell'ambito dell'attività fisica, sia in eccesso che in difetto. Devo dire che nell'attività fisica si vedono spesso questi due poli, no? Il sedentario totale, o addirittura, come diceva Gianluca, l'ex atleta che diventa sedentario, cosa forse ancora peggio da un certo punto di vista, perché ovviamente il corpo ha una certa memoria di un livello di attività fisica che, se tolgo, pesa ancora di più sulla salute e sulla prestazione. Oppure l'eccesso, gente che senza avere magari le basi costruite negli anni inizia a fare attività fisica ad una intensità e con una frequenza tale che non permette il recupero. Vorrei rapidissimamente ricordare che l'attività fisica dà i benefici non mentre la faccio, ma nel recupero. Mentre la faccio, l'attività fisica stanca, distrugge tessuti muscolari, sovraccarica l'organismo, quindi è un'attività che dà benefici se c'è un ritmo corretto tra carico e scarico. Quando esagero, i benefici non li ho, così come non li ho se non la faccio mai. Insomma. Quindi il riposo vale quanto l'allenamento? Il riposo vale quanto l'allenamento, tant'è che negli atleti, questa è una cosa ben conosciuta, si parla di sovrallenamento quando, per errore anche dell'allenatore, dell'atleta spesso, i carichi sono eccessivi e l'organismo non ha la possibilità di recuperare. A quel punto si vede proprio un deterioramento progressivo della prestazione. Dottor Ongaro, quindi noi invitiamo i nostri ascoltatori che hanno qualche chiletto in più ed hanno spesso, lo facciamo spesso noi donne, no Deborah, la colpa al metabolismo, il metabolismo è un po' lento, ma vogliamo dire anche... Io ce l'ho lento. Lentino ce l'abbiamo. E vogliamo dire anche ai nostri ascoltatori che sono degli sportivi amatoriali di chiamarci, soprattutto se si sentono stanchi, se non riescono a ottenere, ad arrivare alle performance per le quali si esercita. Il nostro numero verde è aperto. Dottor Ongaro, io inizierei dal metabolismo, perché ci sono, soprattutto in questo periodo, fioriscono, no, consigli per risvegliarlo, per trasformarlo senza fatica da un oculato risparmiatore in uno spendaccione dalle mani bucate. Purtroppo però lei ci insegna che non ci sono formule magiche, no? Ci vuole pazienza e conoscenza, però molto spesso il nostro metabolismo risparmia perché siamo noi, senza rendercene conto, con il nostro stile alimentare, che lo invitiamo a metterlo le cose da parte, a risparmiare. È il famoso effetto yo-yo con cui si confrontano molte persone che passano, lo sappiamo, da una dieta all'altra, recuperando con gli interessi chili persi. Ma quello che possiamo dire è che tenere il metabolismo attivo durante una fase di perdita di peso è una cosa molto complessa e delicata, ma sta proprio lì la chiave del successo o del fallimento di una dieta. Cioè io devo creare un deficit calorico che permetta la perdita di peso, ma non tale da bloccare il metabolismo. E devo dire che la distribuzione dei pasti nel corso della giornata è una delle cose più fondamentali. Se stiamo troppe ore senza mangiare, mandiamo un messaggio di allarme al corpo che lo traduce in un rallentamento dei consumi. Così come se stiamo troppo stretti con le calorie, succede la stessa cosa identica che accade a una persona a cui riducono lo stipendio, visto che parliamo anche di economia in questa trasmissione, cioè se ti riducono lo stipendio spendi meno. Mangiare poco crea questo, certo, questo effetto, no? L'organismo ha una sorta di shock e dice: beh, se ho delle riserve accumulate in un po' di ciccia in più, me le tengo molto strette. Tra poco, col dottor Ungaro, dobbiamo dare la linea al nostro GR. Graziano da Biella e Lino da Teramo ci seguono perché il dottor Ungaro risponderà alle loro domande. 800 24 00 24, vi diremo non solo cosa mangiare, ma quanto sia fondamentale mangiare alle ore giuste. A tra poco. Cuore e denari. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Risvegliare il metabolismo per convincerlo a spendere e a consumare, perché Deborah, senti un po', se i soldi fanno girare l'economia, si può dire così, no? Diciamo che parlando dello spesometro sono girate altre cose, no? Va bene, però noi non le Bene. Un metabolismo attivo fa girare, nel senso che promuove la salute. Dottor Ungaro, mi sono allargata troppo? No, ridevo per la battuta del cosa girava. Me l'ha messa su un piatto d'argento. Esatto, ma comunque no, è sicuramente così, cioè il metabolismo attivo può sembrare un controsenso che bisogna spendere di più, ma in realtà spendere di più significa stare più in forma in questo caso, assolutamente. Insomma, finché c'è spesa c'è vita. Finché c'è spesa c'è vita e diciamo una cosa che non abbiamo detto prima, avevamo citato altre volte, è che il metabolismo basale dipende moltissimo dalla nostra composizione corporea, quindi più muscolatura abbiamo e più il metabolismo basale tende ad essere alto. Abbiamo detto che è importante, importantissimo quello che mettiamo nel piatto, e tra poco andremo ad analizzare quelli che sono gli errori più comuni che lei ha ben sottolineato nei suoi libri, ma anche l'ora in cui mangiamo. La colazione, lo sappiamo, è un pasto molto importante per la nostra giornata, perché dà il ritmo al nostro metabolismo e deve essere consumato entro mezz'ora, massimo un'ora dal risveglio, mentre la cena, come insegnavano i nostri vecchi, dovrebbe essere un po' anticipata rispetto alle abitudini mediterranee. Dottor Ungaro, quindi la cronobiologia è importante per il nostro metabolismo, per aiutarlo a tenere il passo? È molto importante, e assieme all'orario, assieme alla frequenza di cui abbiamo parlato prima, quindi non lasciare troppe ore tra un pasto e l'altro, gli orari dei pasti sono anche molto importanti. La colazione è anche logico, sveglia il metabolismo, perché dopo ore di digiuno notturno il corpo si riaccende se arriva al cibo, se invece non arriva cosa farà? Si terrà stretti i chili di grasso in più, quindi torniamo al discorso che facevamo prima. La cena è un po' una situazione contraria, perché andremo a dormire e quindi il consumo calorico sarà relativamente ridotto, e quindi mangiare troppo a quell'ora significa ovviamente accumulare di più. Anche, e lo sappiamo, per l'attività fisica ci sono degli orari, a seconda di quello che vogliamo ottenere dall'attività fisica, se vogliamo allenarci e migliorare oppure se vogliamo dimagrire. 800 24 00 24, se volete saperlo intervenite e chiedetelo direttamente al dottor Ungaro. Intanto andiamo a sentire Graziano da Biella e Lino da Teramo. Graziano, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, lei sta bene? Ma adesso sì, adesso sto bene, grazie a voi che mi avete fatto smettere di fumare, perdere 30 kg. Graziano, che soddisfazione. Noi abbiamo l'applauso per Graziano, adesso lo troviamo immediatamente perché se lo merita. Grazie. Tutto. Bravo. Allora Graziano, ha smesso di fumare, ha perso 30 kg. Ho perso 30 kg nel giro di un anno, perché corro tre volte alla settimana, faccio circa 30-40 km. Sì. però gli ultimi 7 kg che voglio scendere sotto gli 80 kg non si muovono. Sono i più affezionati. Brava, e avevo letto anche da qualche parte che se si corre a digiuno per un'ora, un'ora e mezza, il metabolismo si mette in moto, ma a me non funziona, io non so più cosa fare. E allora ha telefonato qua da noi, ha fatto bene, perché... Ma stavo pensando che magari deve fare un po' come la borsa, sestarsi su questo livello per un po', poi riprovarci, ma così dico io. Sai che l'hai detta giusta. Dottor Ongaro, ma... Allora, guardi che Deborah le ruba il lavoro, no, io sono dopo le bacche di Goji ormai. Ecco, io non sarei in grado però di rubare il suo, devo dire, creerei dei danni non indifferenti. Ma diciamo comunque che è una cosa abbastanza tipica questa, gli ultimi chili da perdere sono in genere quelli più difficili, il corpo cerca di tenerseli stretti. L'idea, qui i suggerimenti possono essere due, l'idea di correre al mattino a digiuno è un'idea che può essere valida, perché avendo esaurito le scorte di glicogeno, di zuccheri con il digiuno notturno, il corpo è un po' costretto a bruciare i grassi, ma è molto importante per ottenere un risultato in questo caso che l'intensità sia medio-bassa. Se l'intensità è alta e quindi richiede per lo sforzo l'utilizzo di zuccheri, il corpo se li va a pescare dai muscoli distruggendo il tessuto muscolare. Quindi se insiste con gli allenamenti mattutini a digiuno, mi raccomando che l'intensità sia medio-bassa. L'altro trucco che io adotterei, avendo perso 30 kg e avendo alcuni ancora da perdere, è quello di cambiare attività fisica, di introdurre oltre alla corsa anche un pochino di palestra, perché in questo caso la tonificazione dei muscoli e il guadagno di un po' di massa muscolare può alzare il metabolismo basale, appunto, ed aiutare a perdere con gli ultimi chili. Quindi mattino presto per dimagrire, però occhio all'intensità, pesi per ristrutturare, per diversificare, come si dice sempre, cuore e denari, in questo caso per i pesi, perché siano di aiuto per Graziano per ridurre questi chili che sembrano così affezionati. C'è un orario particolare oppure basta fare pesi e quindi diversificare attività aerobica e anaerobica? Non devono essere fatti a digiuno, cioè questa è un'attività fisica che richiede un dispendio energetico elevato a livello muscolare e va fatta in una condizione in cui il muscolo è preparato per tollerarlo, quindi io consiglio sicuramente un 2 ore, 2 ore e mezza dopo aver mangiato, insomma. Naturalmente parleremo anche di che cosa si deve mangiare per allenarsi, è una domanda che ricorre in tutti i blog. Tu ti alleni a stomaco vuoto, a stomaco pieno, cosa fai? Allora, io te lo sai che faccio attività fisica aerobica molto, molto intensa, dalle 19 alle 20 o alle 21, dipende dal tempo che ho. Diciamo che tento di fare lo spuntino prima di andare, però mi pento perché mi dà sempre un po' fastidio, per cui dovrei anche capire cosa mangiare che va bene per quello che faccio. Intanto abbiamo il dottor Ongaro. Cioè, dopo che lo faccio mi pento, ecco. Che cosa mangiare prima, che cosa mangiare dopo gli allenamenti? 800 24 00 24, andiamo a Lino che ci chiama da Teramo. Buongiorno Lino. Buongiorno. Sta bene? Sì. Va bene, grazie. Io desidererei fra qualche mese chiamare e ringraziarvi di aver risolto il mio problema. Perché? Come che problema c'è? Sì, perché? No, vediamo se riusciamo a fare questa magia. Allora, io purtroppo sempre faccio l'agente di commercio, ho fatto sempre queste diete yo-yo, non mangiavo a pranzo per sentirmi più attivo durante la giornata, poi la sera abusavo, facevo un'alimentazione molto discontinua, se non che oggi 62 anni ho deciso, e la mia pancia cresce a dismisura, ho deciso di andare da una dietologa, mi ha dato un piano di alimentare da rispettare, di circa 2000 calorie, e che veramente sto notando che mi fa mangiare molto di più di quanto lo facessi prima. Però... prima non facevo colazione, adesso invece la faccio, cerco di rispettare tutti i canoni e tutte le istruzioni, però dopo 3 mesi io non ho perso ancora un chilo e la mia pancia rimane sempre voluminosa. Lì, ferma. Chissà se c'è quel cerco di fare tutto. Che... Dottor Ongaro, guardi che il problema di Lino è molto diffuso, come lei mi insegna. Persone che si mettono di buona volontà e vanno anche da un nutrizionista, da un dietologo, imposta la dieta, ma l'ago della bilancia non scende di un millimetro. Diciamo che se avessimo la soluzione avremmo risolto il problema del sovrappeso, l'obesità, la sindrome metabolica, quindi insomma non c'è da stupirsi che sia poi più difficile di quello che ci dice la teoria, però diciamo questo, che iniziare un piano, un percorso alimentare con addirittura un inizio che prevede più introito di cibo di quello che si faceva prima, non è del tutto sbagliato, perché risetta il metabolismo ad un livello di introito calorico maggiore. Sì. Forse però, appurato che dopo questo periodo non c'è stato alcun calo, bisogna tornare dalla dietologa e vedere di partire da lì con una riduzione calorica programmata, in modo tale da consentire una maggior perdita. Dopodiché l'altro aspetto di cui però non ha parlato Lino è l'attività fisica. Esatto. E purtroppo sembra banale e credo che anche gli ascoltatori siano piuttosto stufi di sentirselo dire, però purtroppo è davvero così, cioè la dieta da sola non basta, bisogna abbinare dieta e attività fisica, non solo per un obiettivo che sia quello di ridurre i chili, ma per un obiettivo che sia soprattutto salutistico. Quindi purtroppo se l'attività fisica non è stata presa in considerazione, bisogna inserirla. E quindi niente, deve darsi un pochino una mossa il nostro ascoltatore e ricordare ancora gli orari dell'attività fisica, quindi al mattino a digiuno per dimagrire e soprattutto di aggiungere anche i pesi, che sono spesso dimenticati, dottor Ungaro. Sì, non fanno molto parte della cultura mediterranea europea, diciamo, sono molto più considerati nel nord Europa e negli Stati Uniti, dove ormai fanno parte di qualsiasi tipo di approccio, chiamiamolo medico, al controllo del peso, ma non solo, anche alla salute nell'anziano. Cioè bisogna ricordare che l'attività aerobica ha molti pregi per quello che riguarda il cuore e i polmoni, ma non aiuta a mantenere la massa muscolare, e bisogna anche ricordare che la massa muscolare si perde sistematicamente anno dopo anno man mano che si invecchia, quindi per evitare di trovarsi in quella situazione in cui pur mangiando sempre meno si continua ad ingrassare, ripeto, per mantenere il metabolismo basale elevato bisogna avere anche muscoli, e purtroppo la gente oggi di muscoli ne ha piuttosto pochi, insomma, spesso anche chi fa sport, perché appunto fa uno sport solo e non tiene magari in considerazione anche un'attività in palestra in preparazione proprio allo sport specifico che si fa anche. C'è un tweet di Elisa che vediamo un carina, po'. Sì, infatti. Il mio metabolismo è come bip bip, però troppo spreco energetico. 30 anni, attività fisica moderata, 1,70 m, 60 kg. Mi sembra una gran bella ragazza, Elisa, dottor Ungaro. Ma direi di sì, queste sono situazioni spesso indotte anche da caratteristiche genetiche che però bisogna tenersi stretti. Finché si è giovani chiaramente non si fa fatica a mantenere questo tipo di situazione, ma man mano che passano gli anni bisogna un pochino darsi da fare anche per il mantenimento. Certo, se si è geneticamente portati ad avere un'antropometria corretta è più facile, non c'è dubbio. Un altro ascoltatore che sentiamo all'800240024 torna sulla questione delle ore giuste per fare le cose giuste. Daniele da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Sì, ecco, dunque, rapidamente, svolgo attività sportiva, faccio nuoto a livello amatoriale e per motivi di lavoro mi posso allenare 4-5 volte a settimana, un paio di volte, diciamo, intorno alle 14. Non avendo molto tempo per fare uno spuntino, a parte la colazione al mattino, nuoto quindi dopo aver fatto la colazione, dopo diverse ore, assumendo una o due barrette. Queste barrette ora evito di fare insomma, sì, queste sostitutive dei pasti, ecco. Ormai parliamo in coppia come i gatti pappagalli degli aristogatti. Daniele. No, tra l'altro mi colpiva, non ho tempo per fare lo spuntino, come se portarsi dietro tre noci, come se uno lo spuntino lo concepisse come una cosa in cui mettersi a tavola e fare con un pasto. Con le gambe sotto il tavolo. Non so. Se... Dottor Ungaro, allora, un aiuto per Daniele e per gli ascoltatori che si ritrovano un po' nella sua stessa situazione. Hanno il piacere di allenarsi, ma c'è poco tempo per fermarsi e mangiare questo spuntino. Si ricorre alle barrette, le sembra un'idea buona? Ma può essere sicuramente un'idea buona, diciamo che il mondo delle barrette è molto variegato e vasto, quindi si può anche lì orientarsi di più su barrette che non hanno una lista di ingredienti di 2000 ingredienti come alcune, dove che lasciano un po' desiderare, insomma, come quindi pochi ingredienti. Salutare. Però certamente in situazioni in cui è difficile affrontare uno spuntino completo, la barretta può aiutare, così come possono aiutare anche altre forme di integrazione. Mi vengono in mente gli aminoacidi ramificati, per esempio, che sono molto utilizzati nello sport e che certamente aiutano a proteggere, diciamo, il muscolo in termini molto semplici da un allenamento intenso che viene fatto anche in una situazione non perfetta in termini di introito energetico con gli alimenti. Quindi la risposta è certamente, se non si può fare altrimenti, meglio di niente, ecco. Dottor Ongaro, lei ha parlato di barrette e ha detto quelle con pochi ingredienti. Molte persone, anche in previsione dell'estate, ricorrono a questi sostitutivi del pasto. Ci sono delle indicazioni che lei ci può dare per scegliere una barretta che possa in qualche modo soddisfare le nostre esigenze, ma naturalmente garantire tutto l'apporto di nutrienti necessari per continuare a stare bene? Ma diciamo, Nicoletta, che la barretta in quanto tale, come spesso può succedere, è qualche compromesso lo deve avere, perché per non fare troppe briciole, per essere amalgamata, eccetera, ci vogliono degli sciroppi, ci vogliono degli zuccheri, quindi insomma anche le barrette migliori non sono, dal mio punto di vista, indenni da qualche ingrediente che io diciamo non considero di prima scelta, però devo dire che le uso anch'io, insomma, quindi tutto sommato in una situazione come quella attuale, dove tutti abbiamo poco tempo e a volte si fa fatica ad avere con sé gli alimenti, alcune tipologie di barrette, ripeto, magari controllare quelle che hanno una lista di ingredienti un pochino meno lunga e un pochino meno nomi strani, poi bisogna entrare nel dettaglio, ma insomma questo già chiarisce un pochino il discorso, direi che sono accettabili. Quello che non è tanto accettabile è usarla in maniera sistematica, ma così come i pasti sostitutivi a lungo termine, per compensare tutta una serie di altri errori. Ecco, io le barrette, gli integratori, i pasti sostitutivi li considero molto utili, ma nel contesto chiaramente di un'alimentazione corretta. Non mangio male, poi compenso con, perché in realtà non funziona così, insomma. Dove vuoi andare, Deborah? Nella provincia di Bari o a Ventimiglia? Andiamo a Ventimiglia. Vai. Dove c'è Annalisa, consigli alimentari per che cosa? Annalisa, buongiorno e benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno, buongiorno. Allora, io avevo qualche questione da porre al dottor Ongaro, perché io faccio un'attività molto, molto sedentaria, perché lavoro al computer tutta la mattina. Come facciamo io e Nicoletta, ecco. Annalisa, che dobbiamo fare qua? Siamo inchiodati, incollati a questa sedia. Incollata alla sedia. Poi altra cosa importante, al mattino vado sempre di fretta perché ho una bambina da portare a scuola, da preparare la sua colazione. E Annalisa, ma lei che cosa vuole fare? Lei vuole cambiare? Perché sì, noi ci raccontiamo cambiare, sempre tutte, scusi Annalisa, noi ci raccontiamo tutte le cose che ci fermano dal cambiamento. E invece bisogna dire, ok. Sono in fase di cambiamento. Brava. Perché adesso, per esempio, durante l'ora di pranzo, prima di mangiare, sì? Visto che ho una pausa abbastanza lunga, io corro. Corro, ho anche la possibilità di correre. Brava. Lungo il mare. La domanda, quindi... Annalisa, per il dottor Ongaro, perché sono in coda in tanti. Sì, una dieta, diciamo, iperproteica, con abbinata alla corsa e un po' di attività di pesi in palestra, se è una buona scelta per perdere 2-3 kg. Dottor Ongaro, eccola qua. Annalisa intanto ha deciso di voler cambiare, e di anche di cambiamento lei parla nel suo ultimo libro, che sta per nascere in libreria il 6 maggio, giusto? Esatto, sarà in libreria il 6 maggio, sì. È un libro che nasce, per certi versi nuovi, che nasce un po' dalla constatazione che tutti noi sappiamo che cosa fa bene, ma ci manca il click per cambiare, no? Nicoletta, la come risposta Annalisa appena data ad Annalisa credo che racchiuda molto bene il concetto di questo nuovo libro che si intitola Star Bene Davvero, e che nasce proprio da questa idea, cioè dal fatto che moltissime persone hanno qualche tipo di stimolo nei confronti del cambiamento, ma poi trovano tutta una serie di ragioni che li frenano, che sono delle ragioni spesso oggettive ed esistenti, ma alle volte anche sono delle ragioni un pochino create da noi stessi, come degli alibi per non cambiare più in profondità. Certo. Quindi, per star bene davvero bisogna darsi una mossa. Ma sì, e credo anche che che ci sia un discorso più complesso di un po' di introspezione, di analisi dei nostri desideri più profondi, perché adesso, diciamo, con tutta l'informazione salutistica che si fa e che facciamo anche noi, si corre il rischio di stare in una situazione che è addirittura ancora peggio, nel senso, so che dovrei fare questo, questo e quest'altro, ma non ci riesco. Allora la domanda è: perché non ci riusciamo? Mm-hmm. Cerchiamo di capire il perché, cosa ci frena, abbiamo delle priorità sbagliate, abbiamo degli impegni che possiamo eliminare. Interroghiamo dottor Ongaro, la interrompo Sergio su questo, perché lui è un agente di commercio, sintetizzo perché stiamo andando alla chiusura, vuole perdere chili, Sergio, ma cosa la frena? Mi frena, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione, mi frena il fatto che gli impegni lavorativi non mi riescono a far ritagliare del tempo da dedicare all'attività fitness. Cioè, lei non ha un quarto d'ora. Ci crediamo. Intanto, dottor Ongaro, la nostra analisa aspettava una risposta alle diete iperproteiche per perdere peso rapidamente, allenandosi, lei ha deciso di cambiare, si allena e vorrebbe una dieta iperproteica. Ma allora, sappiamo, l'abbiamo parlato tante volte, che la scelta migliore è una dieta bilanciata in cui non si escludono a priori nemmeno i carboidrati, magari li si riducono in quantità e si usano quelli integrali. Poi una dieta leggermente più proteica rispetto a quella che normalmente le persone fanno, questo non è solo finalizzato alla perdita di peso, ma devo dire anche quasi un'indicazione che va data, perché in realtà si sente spesso dire che mangiamo troppe proteine, ma francamente non vedo quali persone mangiano troppe proteine. Normalmente le persone mangiano troppi carboidrati, zuccheri, prodotti da forno, eccetera. Quindi moderatamente, però attenzione a evitare gli eccessi che poi portano, diciamo, a degli squilibri. E Sergio invece lo facciamo camminare almeno un quarto d'ora al giorno, ci deve fare questa promessa e vediamo se qualche cosina lo smaltisce. Per stare bene davvero, come il titolo del libro del dottor Ongaro, che verrà presto a trovarci. Sì. Grazie dottor Ongaro. Grazie a voi, buona giornata. A presto, buona giornata. A domani.